come la homo. Te vedo un po' tristo, cosa che ciao come la homo. Te vedo tutto pieno d'illusio, così tale la vita, così tale la vita, ah, la vita è un battoccio. E sei davanti in Dio, qua ed è la trana delugio. E una soddisfazione, orco cane, la sei davanti in Dio. Trana soddisfazione, una delugione, e la sei davanti in Dio. Far questo un tuo amico, e te dice, bisogna guardare avanti. Non sta di darti in Dio, porco cane, bisogna guardare avanti. Male che la vaga, sponsare, bisogna guardare avanti. Male che la vaga, dormare, bisogna guardare avanti. Bisogna guardare avanti. Ah, ah.